acciso. Lì proprio l'acciso ha combinato una cavolata una volta quando ci ha portato mia madre con l'infarto in corso, ha lanciato la barella scendendo dal coso, per poi si stava girando la barella, se non la tengo io e vada dalla barella mia madre, gli ha fatto venire un altro infarto. Alla Croce Blu c'è pure Cile. E io non me ne ricordo, eppure io c'ero, io ero dirigente alla Croce Blu, non me lo ricordo Giuseppe, sinceramente, magari. Ma la Croce Blu del Sacro Cuore mica sto parlando, Giuseppe. Quando era prima questo evento alla Croce, quello che era stato facendo il conto di ho capito, pugilato. No, c'era Matta lì e Coso, non mi ricordo l'altro chi era. Vabbè, comunque ho capito, c'era il gruppo speleologico, Matta, e poi ce n'era un altro, non mi ricordo chi, e poi c'eravamo noi. Io ero, se c'era anche Coso, la Croce Blu, c'era venuto anche... Pierpaolo, lo ricordi a Pierpaolo? Chi Pierpaolo? Ah, mamma mia. Era Emilio, se lo ricordi. Emilio sì, chi è a voi? Quello non vedete. E poi non c'era Emilio, c'era anche io lì alla Croce Blu, e c'era anche Franco Panari. Un bel tempo fa comunque, non me ne ricordo. Aspetta un secondo, che non sono... Vabbè dai, Gianco per me dai. Ok, io riprendo più tardi, dai, ciao. Ciao Nunzi, dai, ce la risentiamo, cambio. L'altro lo tengo. Ciao. Bella. Quindi. Atlantico. Pronto? Vediamo un po', dai. Il te fa che le 9. Bisogna liberare un po'. Chiappa. Gianni, c'è sempre tu. Certo, ti devo essere un altro. Chiappa. Giro, giro, giro. Chiappa, chiappa. Io ho visto che fai. Beh, basta. Io non ho preso così. Io faccio girare le prodotto migliori, sempre. Se quando si può. Sto sempre di. Vabbè, da poi dai un bel. No, non ne posso nulla di questi apparecchi, ha ragione anche mia moglie, troppi sono troppi. Ogni volta che deve spolverare deve mettere tutto qua, un casino, dai. Ha ragione pure lì. Cappa. Vabbè. Tienitene due, quelle che ti servono. Vabbè, certamente che sì. Cappa. Devi fare una scelta, se tenere di nuovo o il vecchio. Dopo vendo. Cappa. Io non l'avrei pensata così, ma io l'avrei messa dentro. Se l'avrei fatto io, l'avrei messa dentro un armadio, quando me l'ha servito l'avrei tirato fuori. E già lo so, non lo so. Chiappa. Ok, poi mi dispiacerebbe. Lo so, ma tutto lo si può avere. Può fare un lavoro, devo fare una cosetta, ampliare in un'altra maniera, però. Di più? Beh. Ciao, e te ne sono andato a Ianna. Tanto. Ma viene su una tua Ianna. Ah. Beh, Nerone. Sono il capo, sono un fatto. E dici che fa delle vento, non travaglia, ne mangia, ne drommeni. Inno, alla grande. Invece, mi tocca travagliare, ha fatto tutte le cose. Sì, io ne ho uno di apparato, sotto mano, invece a bidello guai. Lo è quello di Russo, quello è una stazione come si tocca. E apparato è? Capo. E bello è, bello. Ma troppo. Troppi ne vuole. Batto. Vai, no. Oh, yeah. Ed è anche la sua età, è quello che c'è, che se ti parli qualche cosa che si è imparato da voi. Ciao. Oh già, per prendere quello è meglio lasciare il mondo com'è. Vabbè, in effetti già è così. Infatti mi era già venuto anche per questa burraccia che mi ha caricato. Se non mi aveva mai venuto, visto che va via, era buona vita. Quello lo porta a fare al continente, non era giro di qua. La roba di fuori, controllato, fatto, tutto messo in sesto. Revisionato completamente. È troppo anziano adesso. È un rischio. Se è stato usato molto, i componenti sono già usurati all'85%, c'è quel piccolo margine che non ti impattano, ma sono molto usurati i componenti e chi c'ha la ragione, che da quella vieni basta, come ti rampadini, ridrati, da quel basta. Oddio, forse è pure una cosa nuova, ma quando è nuovo è diverso, le cose cambiano, però è meglio un apparato nuovo, cioè che è un apparato che non si sa chi l'ha usato, eccetera eccetera. Ma che piglia che futtidura, cioè è meglio pensarci, ognuno fa come vuole, ma è meglio pensarci 8 volte sopra. No, io conosco chi ce l'ha l'apparato, è una persona veramente seria e che a me non mi avrebbe dato la roba se non, se non fosse stata buona. E boh, io c'è un pensare, mi ha fatto la proposta, ha detto anche cosa è scambio, però non, boh, non so che dirti. Ciao. Non lo so. È bello apparecchio, ecco lui. Ho visto, è veramente nuovo, nuovo, nuovo, come è tenuto maniacalmente, peggio di me quello lì di Giuseppe, tenendo apparecchi, e di te, di Pierpaolo, eccetera, eccetera. Non li va a digraffiare. Dentro, è sempre in chitarra, ragione. Capa, bisogna vedere un po' per valutare. Capa, capa. Tu hai già una bella radio, caspita tua, che è meno, che è più piccola anche, meno ingombrante. Ma io di quello non ne ho di problemi, c'ho il cassone, lo sai come è fatto il mio cassone, ci sta tranquillamente, ci sta gli alimentatori a fianco, ci sta tutta la roba, la sveglia, tutto quello che ci deve mettere ci sta. Io l'ho fatto al cassone invece che avevo il piano perché mi piaceva di più. Scappa, non ti ho mai sentito con uno di quelle. Con un chimodo? Io l'ho avuto il chimodo, l'ho avuto pure per un bel po' di mesi. Peccato. Spero che la modulazione sia giusta. No, la modulazione è bella. Col Q-Food ti fa la voce calda, bella forte. Peccato. Ma non sono tutte le modulazioni che fanno bene. Vediamo tu, la mia già va bene perché mi hanno già sentito e mi hanno detto già che la voce era bella forte, bella calda, e si sente là, quando è che vede un chiudo. Allora, certo, quelli lì escono bene, anche una persona che ce l'ha, mamma mia, certo. Di solito quelli lì escono bene, cioè con la voce un po' sente, escono molto bene quelli lì. Lo so. Mi avevano alzato appena il cursore del coso, le CIE, era una bomba, ma proprio quello disturbava la radio, è troppo forte. Lo devi considerare, se succede una cosa del genere. Lo so. Allora ho fatto tutto, ho buttato acqua su acqua. Ciappa, appunto, non lo so, bisogna valutare bene, bisognerebbe prima provarlo, se è tutto a posto, e poi si vede. Ma a casa non disturbava, non disturbava nessuno nel palazzo, non disturbava solo il telefono di questo. E dice che quando andava a alzare la cornetta sentiva solo a me parlando, nemmeno il numero faceva. Esatto. Bisogna vedere un po'. Ma comunque, se va bene, questa cosa, eccetera, eccetera. E altro là. Ma tanto non lo sto prendendo. Vediamo. Prima ho altre intenzioni. Troppo gatto. E quello lì è una bomboletta, va alla grande. Gusso. Questo. Lo so. E questo non ha bisogno né di batteria né di nulla. Non ha bisogno di nulla. Peccato. La verità mi sono più simpatici così. come dirigente lo sta scaldando adesso, noi lo facciamo andare un pochino a vedere che differenza c'è tra l'uno, l'altro e l'altro, così mi dici quale preferisci. Attacca l'antenna che lo voglio sentire. Sì. Dove sei, Leonci? Io adesso sto accompagnando a casa il bambino. Sta facendo un cambio di apparecchio, sta facendo. Ma in questa zona sì. Questa zona, io? Sì. Via Montefurro, fine via Valletta. Sì, capo, io mi stai arrivando abbastanza forte. Via! È meglio. Attenzione, canale 5, il doppio rumo è tratto. Gianni. Via. E adesso come mi senti? Ma ti sento bene, tu come mi senti con questo apparato? Guarda, qua c'è un trifono, questa è la stazione FM. Prova a fare un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cataforno scala, arrivi, eh. No, va bene comunque con modulazione. Ma gli altri due sono gli altri due. Questo qua è qualcosa, dai, lo sai. Non me l'hanno mai modificato nessuno, mai c'è stato uno che mi ha detto, dai, te lo faccio io se la modifica, no? Tutti i gatti lo sanno, ma non me l'ha voluto mai fare nessuno. Vabbè, non c'è problema. E che modificare? Del canale? No, quella del microfono, quella delle BBP. Che aspetta, che problema c'è? Ma stava a dirlo. Tanto, che qua stava si chiudendo, non si occupa di niente. Ha detto, bastava a dirlo. E vabbè, non c'è problema. Tanto non lo uso mai, lo uso così e basta. Ho sempre fatto una persona che avevo detto non me la volevo subito per dirmi la modifica, ma vaffanculo. Chiappa, comunque è forte, secondo me non c'è bisogno di toccarne nulla, è abbastanza molto forte, solo che le modulazioni più adatte sono gli altri due, sono i migliori secondo me. E adesso facciamo andare un po' questo, perché anche questa batteria aveva 50 anni e non viene sfruttata, si sta consumando così, boh. Infatti queste cose lo mettono in macchina, l'ambientazione è fare un lavoro, rimettervi un DM1000 e mettermelo in macchina, per andare un po'. Ehi capo, non lo fai andare. Ah già. Ehi, bianco un attimo, dai, è pronta la pappa. Ci sentiamo dopo. Ciao Leonci. Ciao, ciao, Antu, buona carica, dai, avanti Leonci. Ciao Antu, buona carica, buon tutto, ci sentiamo alle limite più tardi, dai, quando riprendo la casa. E beh, già. Dove stai andando? Via Tempio. No, accompagnare il bambino a casa, dell'area X. Oh, cappa. Que, hai capito, dai, com'è già il discorso? Oh, yeah, per carità. No. Ma ci sei? Sì, io ci sono, dai. Ci ha capito che era incavolata col fratello e cosa si faceva così. No, no, io adesso sono già a Parico. Sono già un paio di giorni certo andarci a mio fratello, dunque qua non mi piace neanche andarci perché non hai capito, quando ti trovi in quella maniera là e se sei da soli non puoi fare un cazzo e allora preferisco buttarmi a casa, hai capito? Vabbè, io ti grido. Via, per carità, se non cambia la questione occhi, altro che uscire, beh, a me mi sa che il cazzo della terra lo vedremo un po' magro, ma no, un bel magro, c'è da un cazzo, hai capito? Tu sei caduto. Eh? Dimmi già. Io mi stavo filando le cuffie, così almeno c'è qualcuno che viene disturbato, vuole dare pubblico. Non c'è problema, ti ascolto benissimo anche con le cuffie, non c'è problema. Cappa non dovrebbe cambiare nulla. Cappa gappa. Ma comunque, adesso vi voglio sentire come esco, cioè, metti sul 5. Bella. Qua a Sant'Orso là io, dai. Ecco, sta arrivando a Sant'Orso. È sempre no, a 8, Santiago 8 con la radio di 5. Cappa gappa. Ma che cazzo c'hai di antenna, Giuseppe? Ah, cos'è già? Che tipo di attacco c'hai di antenna? Cosa sto usando di antenna? Che attacco hai? Se c'è quella farfalla, quello a coso, a L? No, negativo, c'ho quella, l'antenna è quella che sotto c'ha, tipo girata, capito? Tipo arrotondi. C'è la farfalla come, la tocca farfalla. No, negativo, no, è, diciamo, là, è arrotondo, hai capito? Ma c'è la pattuglia, le nocche.